Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ci sono varie app dedicate alla sicurezza, soprattutto contro le violenze di genere, dato che le donne sono quelle più colpite da aggressioni. Per esempio, ci sono alcune app come Siamo Sicure o Pers Phone App, ne cito due a caso, che permettono di lanciare rapidamente un allarme alle forze dell'ordine o eventualmente anche a un'ambulanza, messaggio che contiene anche le coordinate geografiche esatte a cui recarsi. Come sappiamo però, gran parte delle violenze subite dalle donne si verificano dove GPS ha veramente poco senso, cioè dentro le mura di casa, con tutta una serie anche di implicazioni psicologiche che rendono difficile la denuncia, e quindi l'unica cosa sensata da fare in questi casi è prevenire. Allora, questa sera parliamo di un'app che ha alle spalle un'iniziativa però anche molto strutturata, che punta proprio sulla prevenzione. Si chiama Save the Woman, nasce insieme all'associazione per gestirla SOS Vittime di Violenza, fondata dalla criminologa Roberta Bruzzone e dall'avvocatessa Benedetta Sirignano, che sono impegnate da anni in battaglie contro la violenza sulle donne. Ne parliamo con la responsabile di Save the Woman in Lombardia, Francesca Passerini. Buonasera Passerini. Buonasera a tutti. Dunque, allora ci spieghi di che cosa si tratta, come funziona questa app Save the Woman? Allora, è un sistema che si scarica direttamente sui nostri telefonini gratuitamente e che consente soprattutto di accertare in modo privato la possibilità di rischio di subire violenza. Cioè, se uno è un soggetto a rischio o meno, no? Abbiamo usato questo mezzo perché è il mezzo più intimo e riservato che una donna possa usare, di qualsiasi età, di qualsiasi categoria, di qualsiasi classe sociale. Si scarica nella più completa segretezza, intimità e riservatezza sul proprio telefonino questa app, che contiene all'inizio un test che è stato verificato e studiato veramente nelle minime dettagli. Sì, poi ne parliamo. Esattamente, e che con delle semplici domande e con un gradimento e una risposta che va da 0 a 4, alla fine consente di avere un livello di rischio che, se è nullo, è diciamo bandiera verde; se ci sono qualche rischio è gialla, e se è rosso suona il campanello bandiera rossa. Viene attribuito un codice anonimo, segreto, assolutamente non possibile il riconoscimento per nessuno. Cioè, non associabile alla persona, nome e cognome, come i conti segreti svizzeri praticamente. Esatto, okay. E la donna può in questo caso aprire una pagina in cui vengono forniti recapiti, indirizzi di centri di assistenza, piuttosto che di specialisti terapeuti, piuttosto che dell'avvocato, con cui, con quel codice anonimo, può rivolgersi per sapere cosa fare. Ecco, perché spesso il problema è che la persona non ha idea di che cosa fare, anche di come muoversi per capire che cosa può fare esattamente. Senta, un altro problema riguarda invece proprio la capacità di percepire se stessi come persone in questa condizione di rischio. Ovviamente ci sono casi plateali di gente che insomma li porta in faccia questi segni, ma ci sono situazioni anche un po' più diciamo sfumate, se così possiamo dire. Voi infatti fate 60 domande. Di che tipo sono queste domande? Come fate a inquadrare? Allora, proprio per fare sì che una donna abbia la consapevolezza del proprio stato di rischio, abbiamo studiato un programma di domande che gradatamente possano entrare in confidenza con la problematica, e quindi da una partenza molto soft, diciamo così, quindi come ci si poneva nella propria famiglia, quando ci si danno magari colpo, responsabilità, come ci si pone davanti agli altri, se ci sentiamo adeguate, piano piano, gradatamente, la donna può arrivare poi alla verifica della propria situazione sentimentale all'interno della coppia. Ecco, per tutta questa cautela, perché voi avete visto con questo studio che persino quando si risponde a un questionario di autovalutazione su un computer, quindi non con una persona davanti, le domande dirette fanno paura e spesso le persone mentono praticamente a se stesse, cioè non si chiede tuo marito ti picchia, perché si tende a rispondere di no persino a se stesse. Esatto, inconsciamente abbiamo visto che la domanda diretta, soprattutto all'inizio, fa sì che ci si neghi la realtà, e quindi invece, portando la persona gradatamente a una situazione che sta vivendo nel proprio contesto, si può pian piano arrivare a chiedere magari a fronte di una lite in famiglia, come viene risolta, se facendo sesso piuttosto che perché si prendono delle botte, ma questo è solo alla fine, perché purtroppo anche rispondere a un robot tante volte fa sì che si dicano le bugie. Grazie, grazie avvocato Passerini. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento domani.